Pari, sono colpi di cannone, la taglia è una trincea, ogni casa è una prigione. Ragazzi come noi, che bracciano un fucile per una libertà che non hanno mai avuto. Distruggi il potere ovunque ci sia, distruggi il potere ovunque ci sia. Ha detto che l'Italia, tanti di schiavi e servi, è la rivoluzione, è quello che tu cerchi, causando la violenza. Della violenza, di cui hanno paura e la tua intelligenza. Distruggi il potere ovunque ci sia, distruggi il potere ovunque ci sia. Perché ne sto giocato senza che se ne accorga. Ma un uomo che capisce è tutto il suo cervello. Non lo si può ingannare, non lo si può fregare.